scendere quando vuoi. Non è rimasto ormai più nessuno. Sono più sole ormai di un deserto, scottate dal sole brutto. Tu ti credi candido, sventolare allegro ma i sorrisi tuoi sono rimossi dal vento. Tu ti credi fulmine, scomparire e riapparire quando vuoi. Ma anche le stelle ormai sono stanche di brillare. Quell'acqua è puro veleno.